La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Voglio mandare un grande ringraziamento a quelli che sono venuti al Salone del Libro di Torino alla presentazione del libro La Guardiana del Faro, pubblicato da Liberti, che raccoglie lettere, aforismi e racconti d'amore letti in questa trasmissione. Era l'ultimo giorno della fiera e credevo di trovare il deserto, perché di solito dalla domenica gli stand si svuotano. E invece c'era moltissima gente. Quest'anno il Salone ha superato il record di presenze di ogni altra edizione. E questo rallegra, perché mi sembra che più la politica fa di tutto per affossare la cultura, e più la gente ne ha fame. Negli ultimi decenni c'è stata una gara ad affossare le arti e l'istruzione. Penso al cataclisma Gelmini, ma le persone corrono a visitare i luoghi del sapere. Leggendolo sui giornali si ha l'impressione che il Salone del Libro di Torino sia un evento mondano. Ma no, ci sono i visitatori veri, che si fermano, sfogliano i libri, comprano. Io sento i politici alla TV che si lagnano di essere lontani dal paese, come se fosse una sciagura che gli è capitata in testa, come se non fosse colpa loro. Beh, che si avvicinino, che sappiano capire questi segni e sappiano capire che i cittadini non sono arrabbiati solo perché si vedono togliere il pane materiale, ma anche per il furto della conoscenza. Quanto al libro sulla Guardiana del Faro, il ringrazio di chi c'era soprattutto per il buon umore con cui ha accolto questa strana presentazione, in cui le presentatrici non si sono presentate per ragioni serie, anzi faccio molti auguri a Laura Righi che si era sentita male, e l'unica a venire è stata Giulietta Revel, che ha letto dei brani. Era vestita di verde come un ramarro imperiale, come una bella strega, ed è stata una festa, e ho avuto anche l'emozione di avere in mano e poi leggere una bellissima biografia a fumetti che si intitola Negli occhi il cinema, nelle mani l'amore, storia di Ottavio Mario Mai, taxista, regista e poeta, che con Giovanni Minerva fu l'inventore del Film Gay Festival di Torino. Ma di questa biografia realizzata da Giovanni Minerva, Elsie Perino e Mattia Surroz parleremo distesamente un'altra volta. Per adesso, grazie a tutti. La guardiana del faro. Scandalo. Il ministro Kyenge si rifiuta di stringere la mano ad un leghista. A parte che ho visto il video e non mi pare che lei si rifiuti, mi sembra piuttosto che la guardia del corpo, spaventata, perché quando uno dice sono un leghista, vorrei stringere la mano, la parola leghista evoca magari violenza, evoca magari qualcosa per cui la guardia del corpo lo allontana. La signora Kyenge si è limitata appunto ad andarsene, ma non il gesto di rifiutare il contatto l'ha fatto la guardia del corpo. E in ogni caso, io avrei trovato strano il contrario comunque, se gliel'avessi stretta la mano. Perché non vedo lo stesso scandalo quando i leghisti per 20 anni propagandano razzismo e xenofobia, quando parlavano di prendere a cannonata i barconi, mi ricordo Irene Pivetti all'epoca che si distinse in questa nobile crociata, oppure quando ancora adesso Bossi, prima gran voce adesso un po' borbottando, minacciano l'insurrezione armata, parlano di armi, di proiettili. Ora, proviamo a ridare un senso ai gesti come alle parole. Stringere la mano ha un significato importante, di alleanza, di stima, di cordialità. E perché mai, allora, la signora Kyenge dovrebbe stringere la mano ad un leghista? Questi non fanno che dire i neger, e poi io ti devo dare la mano? Ma no, te la devi meritare. Forse la Lega si era avveduta? Quando rinnegherà le sue ignobili stanze razziste, ecco, se lo facesse, se chiedesse perdono, allora sì che potrebbe osare volere stringere la mano ad una persona che insieme a migliaia di altre di pelle nera o bianca è stata gravemente offesa dal loro atteggiamento, dalla loro propaganda. Così faceva Malcolm X, si rifiutava di parlare con dei giornalisti reazionari, con tutto il suo coraggio, perché sapeva che sarebbe stato ucciso. Però oggi, 40 anni dopo, il presidente degli Stati Uniti non è un bianco. Moi je suis les verts au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Questa è Edith Piaf che canta Les amants d'un jour, gli amanti di un giorno, dove parla alla cameriera di un albergo a ore e dice: io asciugo i bicchieri in fondo a un caffè, e racconta di questi amanti che prendono una stanza e hanno un sorriso così pieno di sole. Lei dice: que ça m'a fait mal, che mi ha fatto male. I due amanti bellissimi saranno poi trovati suicidi nel letto. Adesso però vi leggo la lettera che parla di due amanti clandestini che vivono bene la loro storia segreta e che non hanno nessuna intenzione di finir male. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer. La mia storia dura da 25 anni. È una storia d'amore di due amanti che si sono sempre cercati, ma non hanno mai avuto la forza di rimanere. Io adesso di anni ne ho 50 e lei 42, e mi sembra ieri quando ci siamo conosciuti. Lei era già fidanzata e, benché mi amasse tanto, non è riuscita a lasciarlo. I principi religiosi, i sensi di colpa hanno contribuito affinché tutto rimanesse così, allo stato iniziale, vedendoci di nascosto e amandoci intensamente. Io ho visto il suo matrimonio, lei ha visto il mio, sono nati i nostri figli. Anni trascorsi amandoci con forza e desiderio, passeggiate e cene romantiche, ritrovandoci poi in camera d'albergo, senza essere mai scoperti. Almeno una volta al mese riusciamo a vederci nel nostro piccolo e discreto albergo di periferia, non dimenticando che l'amore, quello vero, è tutto ciò che abbiamo, ma che può anche toglierci tutto. Saluti, Raffaele. Questa, Raffaele, non è una lettera che chieda una risposta, è un racconto al quale non saprei fare nessun commento. Io, per me, non riesco a immaginarla una doppia vita come la vostra, perché sono elementare nei sentimenti e non sarei capace di vivere il sogno e la sua negazione. Ho una natura canina. Al ritorno dagli appuntamenti segreti, tutto in me, dallo sguardo al tono di voce, racconterebbe l'altro mondo dal quale provengo. Avrei disegnati in faccia i baci e il vostro albergo di periferia, come in una canzone francese. Però ho un senso di rispetto verso la vostra vicenda. È una lettera rara. Non cerchi alibi, non parli male di tua moglie o di suo marito. Li lasci sullo sfondo, senza volto. Ci vuole una grande ricchezza umana per coltivare parallelamente tutto questo. C'è qualcosa di così vero in ciò che racconti. Non mi piacciono le ambiguità. Ma credo che il vostro non sia un tradimento, che sia uno sdoppiamento. Vivere su due piani, ma senza rinnegare l'altro. Come se aveste amore bastante per tutti. Adesso ti faccio ascoltare la versione italiana della canzone di Edith Piaf, che fu rielaborata e riscritta da Gino Paoli. Canta Ornella Vanoni e, caro Raffaele, per carità, non fare gli scongiuri. Come ho detto anche prima, voi siete l'esempio di una clandestinità che non ha nessuna intenzione di finire male e che con questa canzone ha in comune solo l'atmosfera del rifugio segreto. Io lavoro al bar di albergo, porto sul caffè chi fa l'amore. Vanno su e giù, proprio sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasta lì come una cretina, vedendo quei due arrivare una mattina. Puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre. E ho messo nell'altro lenzuoli più nuovi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi. chiuso la porta sul loro sorriso. Separata dopo 25 anni di matrimonio, a 52 anni ho conosciuto un colonnello dell'aeronautica. Lui colto, raffinato, io cameriera in un ristorante, terza media, però leggo molti libri e giornali, è tutta lì la mia cultura. Perdo la testa, lui viene trasferito a Parigi e io ci vado 3 volte al mese, dissanguandomi per il costo dell'aereo. Lui pagava l'albergo. Ho scoperto il sesso con lui. Pensa, mio marito diceva che non ero portata, mentre con lui avevo 4-5 orgasmi per notte. Ho fatto 24 giorni di ferie con lui, idem. Di giorno a volte era duro per qualche mia minima mancanza, ma la notte tenero, appassionato, diceva che l'amore non esiste, ma la passione sì. Per lui ho cambiato faccia, pettinatura, non mi truccavo perché non gli piaceva, ma mi faceva foto dappertutto, anche foto mie intime. Dopo 4 mesi che era in Francia, mi dice che è di nuovo trasferito in America. Non mi chiamerà più. Che misere bugie e che misera fine per una storia che per me era tutto. In ogni uomo cerco qualcosa di lui, ma non lo trovo e puntualmente resto sola. Per il dolore mi sono messa a scrivere qualcosa tutti i giorni. Ale. Ale, bisogna essere onesti. Il colonnello ti ha fatto nascere. È stato un colpo meraviglioso. A 52 anni, convinta di essere un fallimento come donna, addirittura, come scrivi tu, inadatta al sesso. E poi salta fuori questo diavolo in divisa che ti dimostra tutto il contrario. E Parigi, e orgasmi. Ma allora i miracoli ci sono e a te ne è capitato uno. Quello che più intenerisce nella tua lettera e dà il sapore esatto della felicità sono quei conti così compiaciuti, come si potrebbero trovare nel quaderno quadretti di una bambina. A Parigi 3 volte al mese, 4-5 orgasmi per notte, 24 giorni di ferie, 24 per 5 uguale 120. E finché poi vengono anche i numeri dell'infelicità. Dopo 4 mesi, fine. Sì, ti ha detto delle bugie, e le bugie sono sempre misere. Però, che ricchezza prima. Il colonnello e la cameriera insieme si tolgono maschere e divise. Diventano un uomo e una donna. Lui nega l'amore chiamandolo passione, ma lo pratica. E ti fa sentire la più importante, la più bella, al punto che non sopporta di vedere nemmeno un velo di cipria sul tuo viso. Hai fatto un solo errore, secondo me. Ti sei concentrata sull'ultima bugia, invece che sulla gratitudine per avere contribuito a creare una nuova Ale, nuova di zecca. Ricordati che tu prima aspettavi tristemente la vecchiaia. Non tutti hanno la grazia di chiudere in bellezza una storia bella, perché la fine è sempre brutta. E certe menzogne, come lui ti ha detto, sono delle delicatezze maldestre, sono come il velo che si mette sulla faccia dei morti, perché non ci rattristino direttamente. Io direi ringrazia Dio e ringrazia il tuo colonnello per essersi dissolto tutto in una volta, senza strascichi, senza farti vivere l'orribile dopo. L'ascoltatore Carlo Matassini mi domanda quali sono i miei legami con la cittadina di Figline Valdarno, che mi ha sentito citare spesso. Ti ringrazio, Carlo, mi fai una domanda molto cara, perché mi obblighi a riandare ai miei nonni. I miei nonni paterni venivano da lì, da Figline Valdarno. Lui Alberti, sua madre Palmieri, lei Misseri, lui decorosa borghesia, lei famiglia operaia. Ciò che le veniva rinfacciato come se la famiglia del marito fossero stati i Windsor oppure i Borbone Parma. Mi ricordo di 2 loro nipoti che vennero da Figline, di folgorante bellezza, che vennero ospiti da noi in viaggio di nozze. Si chiamavano Elio e Alda. Belli così si erano visti finora solo al cinematografo. E una cugina arguta come una Gianna Nannini, che Rita. Ma sono cose di tanto tempo fa. Grazie per avermele ricordate. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. La chambre d'hôtel au papier jauni, et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Di recente abbiamo parlato del film di Maria Sole Tognazzi, interpretato da Margherita Bui, Viaggio sola, che parla di una donna single ammonita da tutto il contorno di parenti e amici come una persona in pericolo semplicemente perché è libera. E allora hanno scritto alcune ragazze, alcune donne che vivono sole, e voglio leggere degli stralci di queste lettere. Scrive Antonella Dalmaso: sono felicemente sorpresa che sia stato fatto un film che reputo molto vicino a me. Ho quasi 51 anni, ho vissuto la maggior parte della mia vita in solitaria e attualmente ancora così. Sono felicemente sola. Amici e famiglia non mi commiserano, fortunatamente, forse perché non li lascio o forse perché semplicemente mi vedono tranquilla. Il lavoro descritto nel film, ricordo ispettore segreto negli alberghi, agente segreto, uno di quelli che avrei voluto fare. E poi scrive su Facebook Marta Planets: ho quasi 40 anni e sono sola da tantissimo tempo. È la prima volta che metto per iscritto questo risibile concetto, perché sono sola, mi fa ridere, punto. Sono tra quelle che si sentono a posto senza marito e senza figli. Lavoro anch'io nell'hotelleria 5 stelle e spesso viaggio da sola, e le assicuro che è solo per buon cuore che non segnalo i componenti dello staff quando mi servono la cena. Ah, esecrando momento in cui pare che se sei femmina e non accompagnata sicuramente morirai subito dopo per la vergogna. Mi chiedono con espressione formalmente contrita ma cortese: est-ce que madame est seule? Cioè, la signora è sola? Oui, risponderei. Madame est seule et au comble du bonheur. Pure in rima, ovvero sono sola e al colmo della felicità. Invece no, non si può dire. Se no, sei la zitella che fa del revanchismo. E questo è un dispiacere e un fattore di regresso socio-mentale. Perché, sdoganando la possibilità dell'essere felici da sole, si eviterebbero un sacco di connubi inutili e deleteri. Adesso a volo di gabbiano proprio una serie di ringraziamenti noiosissimi per chi ascoltasse, ma che a me fa molto piacere comunicare. Cinzia, grazie per la lettera allegra e deliziosa. Grazie a Ladis, anche questa una lettera molto personale e molto graziosa, dove mi avverte che su Facebook la mia data di nascita è il 5 maggio 1905. Avrei dunque 113 anni. Non so se dire magari o Dio mi guardi. E poi Patrizia, altre cose personali che non si possono dire, ma grazie di cuore. Grazie anche a Gianfranco Galasso, le cose che mi dici resteranno fra te e me. E anche grazie per la poesia che fate di versi di altri poeti. È molto saggio, meglio combinare i versi degli altri che scriverne di brutti in proprio. Oh, Maddalena da Monza fa una richiesta interessante che presto sarà accolta. Lei mi chiede di raccontare le trame delle opere liriche che parlano d'amore. Ma certo, l'abbiamo fatto una volta sola. Abbiamo raccontato a modo nostro La Traviata, facendo anche sentire dei brani di canto e musica. E stavamo proprio preparando L'Elisir d'amore, Rigoletto, Don Giovanni e Il Turco in Italia. Quindi prestissimo sarai accontentata. Ecco, io non ricordo se ho già ringraziato Corona per Air, però se l'ho già fatto sarà due volte, una benedizione laica che ti piomba in testa, felicemente, due volte. E poi grazie a Vale per cose che, come le precedenti, restano tra noi. Grazie, Patrizia, per la tua esagerata benevolenza. No, no, esagerata, non è mai abbastanza. Ci scalda, ci fa sentire in un covile. Uno degli uomini più affascinanti che io abbia conosciuto, non l'ho mai conosciuto, ovvero non l'ho mai incontrato. Si chiama Enrico Lucchini, ha ora 95 anni, e mi scrive da 30, e ogni sua lettera, che racconta una tappa della sua vita, io, che non ricordo niente, che ho il giusto castigo dei distratti, la smemoratezza, me la ricordo perfettamente. Cominciò raccontandomi della scoperta della passione con sua moglie, quando erano già vecchi, e c'era sempre stato un rapporto tiepido, sessualmente irrilevante, e lei scoprì una lettera erotica che lui aveva scritto un'altra, e a cena strinse la mano al marito in modo così appassionato e riuscendo a esprimere la sua curiosità e il suo desiderio senza una parola. E allora conobbero per la prima volta una confidenza carnale che non c'era mai stata. E poi la più deliziosa, che purtroppo ho perduto, ma la ricordo: mia madre mi porta a Iella, che era detto con prove documentate durante tutto il corso della sua esistenza. E poi il suo passato da aviatore con episodi da grande romanzo. Mi ha scritto un'altra volta, partecipandomi in ordine di tempo la sua ultima avventura. Gli hanno tagliato una gamba. Il punto è come lo racconta. Chissà se riuscirai a volermi ancora bene, riattaccata a una gamba che mi si era spontaneamente e dolcemente staccata. Vivo ottimamente nella mia casa definitiva, stanza, letto e bagno singoli ed esclusivi, a Busnago, casa famiglia. Ti penso dei miei stupendi, anche se pieni di errori, 95 anni, con l'interessante esperienza di aver sentito, senza avvertire dolore, l'azione della sega e i colpi di martello e scalpello sul mio corpo. E poi finisce con un chissà. Ecco, appunto, nessuno sa. Grazie, Enrico. Moi je suis l'hiver au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer. C'est corps contre corps qu'on les a trouvés. Non è stata colpa sua se è finita con mio marito. Diciamo la verità, andava già male da prima. Lui più giovane, più simpatico e anche più appassionato, mi ha aiutato a troncare un matrimonio, per fortuna senza figli, che era sopravvissuto anche troppo a se stesso. Ho lasciato mio marito dopo 15 anni, professore, serio, ottima persona, ma noioso da quasi subito. Ma non sono andata a vivere col mio giovane amante, intanto perché abito in un piccolo centro e poi perché ho fame di libertà. Ma lui è geloso oltre ogni immaginazione e controlla tutti i miei movimenti. Così ogni tanto lo inganno, anche se non lo tradisco. Sono andata a un matrimonio, non volevo farglielo sapere, gli ho detto una bugia. Ma quando sono arrivata, lui è saltato giù dal bagagliaio della macchina. 80 chilometri chiuso là dentro, solo per farmi capire che è inutile dirgli delle balle. Che farò? È sempre più attaccato. Marinella. Cara Marinella, prima un marito troppo marito, poi un amante troppo amante. C'è sempre qualcuno da ingannare, anche senza tradire, come hai specificato. Sai, lui non è solo ossessivo, ma è anche molto giocoso. Ti ha fatto uno scherzo, se è uno scherzo. Se invece è l'occhio implacabile del poliziotto, c'è da preoccuparsi. Ci sono dei dettagli importanti che mancano. Com'era lui quando è uscito dal portabagagli, oltre che mezzo soffocato e tutto acciaccato? Era trionfante, era odioso, era allegro, padronale, amoroso, col desiderio di stare insieme. Fra ognuno di questi atteggiamenti ci passa un mare di felicità o di noia. Una cosa è certa, tu hai una fame di libertà più grande di lui. È divertente, è entusiasmante che qualcuno pensi a noi giorno e notte, che non sopporti l'assenza, che voglia conoscere il pensiero passeggero e che voglia sapere perché quell'ombra sulla fronte. Però da qui all'essere inseguiti e non poter andare a prendere un gelato senza dover rendere conto, io direi a questo spirito suo ragazzo che farsi trovare nel bagagliaio, una volta è uno scherzo, due una galera. Quella che sta con mio figlio è il peggio che ci poteva capitare. Per passare una notte con lui vuole un regalo, per un fine settimana un regalo più grosso e se ne frega se lui sta bene o sta male. E poi lui viene a piangere da me e io gli dico lasciala, ma mio figlio è legato perché lei col sesso ci sa fare e vuole farsi sposare. Lui è avvocato, 56 anni, serio, ha una bella posizione e lei ci ha fatto sicuramente un pensierino di fare la moglie del professionista affermato. Io gli ho fatto conoscere una ragazza molto in gamba, non sarà una vamp, ma è una persona molto affidabile, va certamente meglio di quella puttana, madre in pena. Mamme, calmatevi. E poi, signora madre in pena, la prego, non offenda le puttane. Le puttane non ingannano nessuno, e anzi, sono le uniche a dare ciò che promettono, a pesare, secondo giustizia, piacere e prezzo. Io non trovo inquietante la condotta della ragazza, trovo inquietanti certi particolari della sua lettera. Intanto quel ci dice questa ragazza è il peggio che ci poteva capitare. Ma lei che c'entra, signora, scusi? Non le sembra insano e anche parecchio incestuoso riferito a un figlio di 56 anni? Ma che siete, una SPA erotica, voi due? Non le preoccupa questo giovanottone vecchione che non ha la dignità di viversi una storia per conto suo senza andare a piangere della mamma? La ragazza, secondo me, ha delle pretese molto modeste. Per sopportare un piagnone con mamma al seguito meriterebbe molto di più di qualche regalo. Ma se vuol farne uno lei, suo figlio, smetta di trattarlo come se avesse 8 anni. Gli ricordi che è un uomo, anche se credo che ormai sia un po' tardi. Allora, queste sono note biografiche dell'ascoltatore Ivano Ciccarelli, scritta da lui medesimo. Ivano Ciccarelli nasce nel 1960 a Marino, nei Colli Albani, a sud di Roma. dove oggi sopravvive. L'unica sua certezza è un figlio splendido. Legge e a volte purtroppo scrive. Capita che pensa, poi spesso si astrae. Adora i rossi delle langhe e un timballo ciociaro. Gli è simpatica la mucca, così mite, utile, muta. Qui è proprio scritto così, a imitazione del muggito. Prova terrore per gli ipocriti che ostinati tolgono il pane ai poveri e dai poeti la pace. E poi Ivano Ceccarelli mi scrive: ti mando un mio brevissimo racconto. Allora, brevissimo. Se le parole hanno ancora un significato, secondo una misura editoriale e di buonsenso, ma quanto sarà? Mezza pagina, una pagina. Stampo e mi vengono fuori 30 pagine. Magari anche interessanti, ma vedi Ivano, sono più di 2 anni che facciamo questa trasmissione. E una volta sì e una no, io prego di non mandarmi i vostri scritti, perché in redazione siamo 2 e non c'è il tempo per leggerli. Sarebbe un lavoro a parte, lungo, impegnativo. E invece continuano ad arrivare, a valanghe. Credimi, non dovremmo fare altro. Abbiamo calcolato che ci vorrebbe una persona a leggere 10 ore al giorno, ma senza pausa caffè, e non è questa la trasmissione. Ora, nella tua lettera ci sono 2 bugie. Uno, che chiami brevissimo un racconto di 30 pagine. La seconda, più grave, ed è ciò che rende sgradevole il lavoro, eventualmente, di leggere, quando dici che gradiresti un mio commento, qualunque sia. No, Ivano, non è vero. Lo sai tu come lo so io. Chi fa leggere un suo scritto non vuole un parere, vuole essere incoronato, vuole farsi dire che è bellissimo, che è un capolavoro, e soltanto quello. Io i primi tempi ingenuamente rileggevo e davo delle risposte private. E se non dicevo che lo scritto era geniale, mi arrivavano delle lettere di insulti efferate, il cui senso è uno solo: lei è una scema e non ha capito niente. Voglio solo un giudizio. Ma come solo un giudizio? È un atto di confidenza terribile, un atto d'imperio anche. Il mio giudizio è così soggettivo. Ci sono dei libri acclamati che a me fanno schifo e che non avrei mai pubblicato neanche sotto tortura e che invece mandano in visibilio milioni di persone. Mi esprimo liberamente, questo sì, sui libri già pubblicati. Ma se stronchi un inedito, puoi diventare un boia e magari hai torto. Quindi vi prego di scrivere per dialogare e non per monologare. Ci sono altri palcoscenici letterari. Il nostro invece è soltanto un faro a Finisterre, là dove la terra finisce. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid. Ultimamente abbiamo intervistato qui al Faro Genevieve Macaping, la mia amica del Camerun, che è stata per anni e anni docente di antropologia all'Università di Calabria. Poi, grazie alla legge Gelmini, oggi è disoccupata, ovvero si è occupata in 1000 altre cose per vivere. E l'altra volta l'avevamo sentita sul ministro Cécile Kyenge e specialmente sul fatto che i bambini che nascono in Italia devono essere italiani. E adesso però Jenny ci racconta una cosa che è successa a lei. È nato un suo nipotino. Pronto Jenny? Sì, pronto Barbara, è nato mio nipotino. Figlio di tua sorella? Sì, figlio di mia sorella, bellissimo. È italiano camerunese, premetto italiano perché è nato in Italia. Il suo papà è italiano. E mia sorella è nera, quindi un bambino, come si, che razza sarà secondo te? Che ne so? È bellissimo. Allora, ma la cosa veramente che è dell'incredibile è successa all'ufficio anagrafe di questo ospedale, ovviamente il nome non lo faccio. Non mi dire che ha litigato. Non lo dico perché, insomma, di querele ne ho abbastanza, solo la Cassazione mi ha anche liberata ultimamente. Per dire che andiamo a registrare la nascita di questo nuovo cittadino e chiedono, vado col papà perché mia sorella non può essere presente, però autorizzata a me ad andarci. E la funzionaria, una signora di questo ufficio, già quando mi vede, insomma, guarda un po' storto, però io sono antropologa, non voglio avere pregiudizi, io penso soltanto che una mattina forse qualche cosa gli era andato nell'occhio. Al momento di registrare il nome del bambino, avevamo concordato con il ragazzo di mia sorella, italiano bianco, perché se no non si capisce, di mettere il nome del bambino Perez, che è il suo nome, e poi il doppio cognome Sicati nella mia lingua bamileke, perché da adulta e capo di famiglia mi tocca dare un nome ai bambini che nascono in famiglia, fossero anche famiglie miste, come adesso si dice. Quindi per Sicati, che significa Sicati nella nostra lingua, si vuol dire Dio, ka è la particella negativa e ti significa dormire, quindi Dio non ha dormito, Dio ha vegliato, dunque, insomma, Dio non ci ha abbandonato, graziandoci con la presenza di questo bambino. La signora dell'anagrafe prende una penna e la cosa che veramente mi ha offesa, ma offesa, mortificata e ferita, prende una penna e va a cancellare, finanche bucare la carta, proprio il nome Sicati. Per dire, vedete, che... Scusa, ma con quale diritto? E con quale pretesto? Col pretesto che in Italia non si dà doppio cognome. Va benissimo, ma signora, ma lo deve spiegare, perché quel gesto di cancellare il cognome del bambino africano in aggiunta al cognome del padre, io ho preso quel gesto, il cancellare fino anche a bucare la carta, come se fosse una spada che trafiggeva il mio cuore. Ecco, queste sono le guerre etniche, queste sono le guerre culturali. Alla signora sarebbe bastato dirmi: in Italia non si dà doppio cognome, e che non è neanche vero, perché vedo tanto di doppio cognome in giro, però non voglio entrare in questa polemica. Per dire che cosa? Che alla fin dei conti, l'amore per la mediazione, l'amore per l'amore dell'altro che io ho voluto operare è stato questo. Benissimo, dopo un giro di telefonate persino al consolato del Camerun per sapere che la legislazione del doppio cognome era in Italia così, però che c'era una convenzione col Camerun per poter mettere doppio cognome, insomma, non sto lì. Quindi aveva anche torto, aveva anche burocraticamente torto questa signora maleducata. No, in parte, non voglio dire, no, in parte, perché alla fine io, ecco, quando parlo di mediazione culturale, intendo questo. Io ho preteso, voluto, ed è stata la strada della pace, a mio modesto parere, di far salire il cognome africano del bambino e metterlo accanto al nome. Quindi quello che doveva essere il suo cognome africano è diventato il suo secondo nome. Allora, nella mediazione tra le culture, nessuno perde qualche cosa, piuttosto fa un passo indietro per evitare le guerre. E questo nella micro situazione, nelle macro situazioni succedono anche delle guerre. Questa signora non aveva nessun diritto a prendere quella penna tipo rasoio e stracciare il nome africano del mio nipote che avevo messo, quanto piuttosto di spiegarmi che in Italia non si poteva. Sì, ma certo, lei non voleva espletare la sua funzione, voleva semplicemente esercitare un potere e manifestare un disprezzo. Ma spero che gliene avrete quattro, conoscendoti, Jenny. Beh, sì, assolutamente, gliene ho detto quattro, perché ho visto che dietro di lei c'era la fotografia di una delle tante Madonne in un paese cristiano. Ho detto: signora, ma abbassa un po' quella voce, e soprattutto sui contenuti di quello che lei sta dicendo sono proprio brutti. Signora, lei è una donna cattiva, oltre che ignorante. E lei mi risponde: non parlare male della Madonna. Allora ho capito che veramente fossero più cristiana io che lei. Se l'ho detto che la Madonna non voleva situazioni di guerra, ha detto non toccare la Madonna, insomma, per dire che anche in questa situazione, anche per invigorire quella che è la lotta che vuole fare Cecile Kyenge Kashetu, e anche questo, cioè i bambini che nascono qui dalle coppie cosiddette miste, quale nome avranno, perché in una coppia come questo, che fine va a fare la mia cultura? Si perde? No, non dovrebbe perdersi. E bisogna rinunciare, come ho fatto io, al cognome e far diventare un cognome un nome. Sono delle piccole cose che servono per rinvigorire rapporti tra le persone, ma anche rapporti tra le culture e rapporti pacifici tra i popoli. Via di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.